a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Siamo tutti ben consapevoli che anche in tanti degli eventi calamitosi che si succedono sempre più frequenti nel mondo, come quello che ci ha colpito in questi giorni, da questo non è estranea la mano e la volontà dell'uomo. Sta nella voragine della strada crollata la mano dell'uomo. Sta nelle barricate di materassi usciti da case sventrate dall'acqua. Sta nella successione di palazzoni che hanno velocemente trasformato un antico borgo in popolosa città. La mano dell'uomo sta anche dietro quelle bare messe in fila nella chiesa di Olbia, come nelle bandiere di tutta Italia a mezz'asta per l'ultima alluvione che ancora una volta lascia lutti e distruzione. Le lacrime e le inchieste dopo la pioggia diventata ciclone e ancora una volta dopo Sarno e dopo Giampilieri, dopo le Cinque Terre e la Lunigiana, dopo Genova e tutte le altre alluvioni sparse qua e là, l'Italia riscopre un territorio violato e si interroga su quello che ha fatto. Così ad Olbia, che ogni anno finisce sott'acqua anche con piogge normali, ora tutti raccontano di come velocemente la città sia diventata la porta verso la Costa Smeralda, esplosa di cemento e costruzioni, prima abusive e poi condonate. 17 negli anni sono stati i piani di risanamento e se si va a guardare nell'elenco di entrate e uscite si scopre che 1,5 milioni era stato pure stanziato per la difesa del suolo, ma che quei soldi, riporta Stefano De Liperi, dirigente della Corte dei Conti, sono stati dirottati verso altre destinazioni. Olbia in particolare è una città interessata da ben 17 piani di risanamento. Vuol dire che si tratta di 17 quartieri di fatto costruiti abusivamente e poi successivamente beneficiati dai provvedimenti di condono edilizio. La maggior parte di questi quartieri sorge proprio in zone a rischio idrogeologico e sono quei quartieri che di fatto sono finiti purtroppo sott'acqua nel corso dell'ultima recente drammatica alluvione. Anche in questo caso vale la vecchia regola di seguire il flusso dei soldi e ad Olbia, ora sfregiata dai segni di un'alluvione particolarmente potente, ma non inattesa e non senza precedenti, porta fino alla rincorsa del cemento quella regola. E ora fino alle 3 inchieste per omicidio colposo già aperte dalla procura di Tempio Pausania e di Nuoro. Una sulla voragine nella strada che ha inghiottito auto e passeggeri, un'altra sulla famiglia affogata nel seminterrato di Arzachena, una terza sulla devastazione di Olbia con la storia dei suoi piani di risanamento ma pure con la complessa catena di comunicazioni e allerta tra la Sardegna e il continente. Non escludo un cortocircuito informativo, ipotizza il PM Riccardo Rossi, in un contesto complessivo dove il rischio è che troppo spesso gli allarmi vengono diffusi, soprattutto per stare tranquilli con la burocrazia. Ma nelle indagini questo viene dopo, prima c'è da ricostruire la storia dell'intera città. Il primo è relativo alla voragine sulla strada Olbia Tempio, poi il secondo è quello sulla morte di brasiliani che sono morti ad Arzachena. Terzo è il disastro di Olbia. Ed è in questo terzo fascicolo che rientrano anche indagini su tutti i piani di risanamento? Noi abbiamo richiesto di acquisire la documentazione relativa alle infrastrutture urbanistiche di Olbia. Rientreranno nel piani di risanamento, cioè in quelle normative tecniche che sono state dettate per lo sviluppo urbanistico di Olbia. Capito? Cioè in sostanza anche tutto il discorso dei soldi che in passato erano stati stanziati per il rischio idrogeologico e non utilizzati per questo, anche questo? Questo è da vedere, tutti i documenti che noi chiediamo e poi vedremo di trarne delle conclusioni. Quindi i documenti che voi adesso andate a raccogliere sono quelli relativi a tutto quello che è stato fatto ad Olbia o non fatto in questi anni? Fatto o non fatto in questi anni per ho fatto male, ho fatto bene, è tutto da scoprire. Anche il capitolo degli eventuali soldi spesi o non spesi su questo fronte, perché ci risulta che erano stati stanziati in passato 1,5 milioni proprio per io questo non lo so, non è una notizia che io sappia, la andrò a scoprire. capito? È troppo presto. Ecco, procuratore, in questo stesso fascicolo rientra anche il capitolo delle misure prese collegate all'allerta meteo? Ci rientra marginalmente, nel senso che ci può essere un aspetto, ma direi che è meno importante in questo momento, in questa fase, sapere se sono state fatte le giuste contromosse rispetto all'allerta meteo, è meno importante piuttosto che sapere se le infrastrutture fossero buone. Se io ho una città che mi va sott'acqua per 2 metri, che diverse impostazioni avrebbero potuto dare? Mettere i gommoni più vicini alle case? Come dare un ordine di evacuazione? No. Evacuare una città di 60.000 abitanti. L'allerta meteo è un avvertimento che si dà su un avvenimento incerto e futuro, e in qualche maniera si può ipotizzare un certo tipo di reazione. Ma quante allerte meteo sono stati dati in Italia negli ultimi 10 anni? Certo, però è anche vero che poi tra le tante allerte meteo ci sono quelle diventano distruttive, cioè, e poi se in casi come questi ci sono anche i morti, non c'entrano questo? No. Guardi, il problema è anche questo, però il problema dell'allerta meteo è un problema che non vorrei che venisse a avere una valenza superiore di quella che ha, cioè nel senso che io faccio un'allerta meteo e mi metto a posto. Quello che mi sembra di capire dal suo ragionamento, dottore, è che comunque, diciamo, indipendentemente dalle misure prese o non prese conseguenti a quell'allarme meteo, diciamo, non è quello che ha provocato i morti. Non dico che non sia quello. I morti sono stati provocati da 2,5 metri di acqua, cioè l'acqua al primo piano. Ci saranno anche questi profili da verificare, ma il vero grosso problema, e che vale anche per il futuro, è vedere come è stata costruita una città, come è stata costruita un'infrastruttura, la fragilità di questa struttura. Ecco, in questo momento interessa più questo aspetto. Poi ci sarà anche la valutazione di che cosa è stato fatto nel contesto immediato, di che cosa non è stato fatto e che cosa avrebbe dovuto essere fatto e in che misura è stato incidente questo non fatto per questi morti. Però in questo momento io sono più interessato ad acquisire la documentazione relativa alle strutture per poter poi permettermi di fare un'indagine tecnica. Cascata la strada tra Tempio e Oia Olbia, è stata un'imprudenza quella di mettersi per strada in una condizione atmosferica così, ma la strada è crollata, a me interessa quello, e poi dopo si vedrà anche il resto, l'efficacia di queste norme, di queste prescrizioni, e questo sarà da vedere sicuramente, però mi interessa prima questo aspetto, diciamo, cioè quanto la città abbia fatto o non fatto nel corso degli anni per far fronte ad un pericolo che non era un pericolo nuovo d'altra parte per una città come Olbia. A Olbia si va sott'acqua se fa 10 minuti di pioggia, e questo è il discorso, cioè nel senso che Olbia è sempre sott'acqua, c'è sempre una mezza gamba di acqua se piove anche per 2 ore, cioè. E quindi a maggior ragione forse dei provvedimenti potevano essere presi nel corso degli anni, per pacco, espressione gergale estremamente efficace. L'ultima cosa che le chiedo, procuratore, è questa: per ritornare al discorso delle comunicazioni e delle allerta meteo, da una parte adesso ci sono i sindaci che dicono noi non è che possiamo evacuare le città ad ogni allerta visto che ce ne arrivano 20 all'anno, dall'altra parte una segnalazione come questa di una perturbazione così grave parrebbe mandata di domenica a municipi già chiusi con un fax. Voglio dire, non c'è forse un obbligo anche di comunicazione diretta e di accertarsi che le comunicazioni arrivano a destinatario finale, cioè la popolazione, quando c'è un pericolo così, così concreto e non è un'allerta come tutte le altre? Evidentemente il grido al lupo è sempre presente nella nostra fantasia. È chiaro che le comunicazioni debbono essere efficaci e le comunicazioni debbono essere portate al destinatario in maniera che il destinatario le colga perfettamente nella loro interezza. Bisognerà vedere e capire momenti, come, dove, quando sono stati fatti, che tipo di riferimenti sono stati dati e quant'altro. È sempre oggetto delle indagini anche questo. Noi cerchiamo di capire che cosa sia avvenuto e gli avvenimenti sono portati di una serie estremamente varia e ampia di cause. Ecco. Io non escludo che ci possa essere stato anche un cortocircuito informativo e ci possa essere stato una sottovalutazione del rischio, però è una delle tante cause che in qualche maniera è venuta a incidere su questo lavoro. Certo, questo uno degli elementi che va a incidere, ma forse anche reso possibile dal fatto che ormai si diffondono comunicazioni allerta tantissimo, cioè c'è forse anche un'eccessiva burocratizzazione di questo tipo di comunicazione. Infatti, l'allerta è un'allerta che deve essere ponderato, perché altrimenti se io do l'allerta o l'allarme per mettermi a posto con la mia responsabilità, dice beh, io tanto l'allerta ve l'ho dato, sono fatti vostri. È sicuramente una difesa utile per chi ha dato l'allerta, però tutto per dimostrare. Cioè che a volte ci sia un po' il fatto che si dia l'allerta per mettersi a posto e brava. Poi... Quai mai succede qualcosa, io sono a posto. E per questo ci sono anche così tante allerta. Esatto. Poi a un certo momento rientra sempre nella vecchia favola del lupo al lupo. E per questo forse i sindaci hanno anche ragione a dire noi non è che possiamo evacuare ogni allerta che ci abbiamo. Anche perché l'evacuazione, cioè 150 abitanti ti puoi anche evacuare, ma 80.000 abitanti cosa fai? Vi state avviandovi in un'inchiesta che sarà complicata anche perché molto tecnica e molto dolorosa. No, ma ci sono degli aspetti tecnici ma veramente molto complessi. Lo sviluppo urbanistico di una città, cioè fatto di infrastrutture, di strade, di cose, di fogne e quant'altro, è un affare molto complesso. E torniamo allora a seguire il flusso dei soldi investiti negli anni intorno alla città che doveva essere porta verso la ricca Costa Smeralda. A ciascuno il suo. Ci stiamo organizzando a andare casa per casa a chiedere di cosa hanno bisogno e poi ritornare dove c'è il deposito della raccolta di indumenti e prodotti alimentari e li riconsegniamo. Abbiamo già svoltato 4 volte questo sito. Diciamo che molta gente ha avuto delle remore e si vergognava anche nel venire qui a chiedere, soprattutto pensando a tutto quello che gli era successo. Sugoro serrano ogni balcone a una fritta cantone mudo resta sugoro. Ed è successo che in un momento chi è sopravvissuto si è ritrovato senza tutto e con tanto fango ovunque. È successo che ora è accatastato sul ciglio della strada quello che un tempo era dentro nel calore delle mura di una casa. È successo che all'improvviso, dopo una bomba d'acqua che ha accartocciato ponti, sbriciolato strade, sventrato palazzi, questa parte di Sardegna ha dovuto interrogarsi col suo passato recente e con l'ingordigia di cemento. Davanti a campagne distrutte ha dovuto ammettere la sua personale responsabilità dietro quella devastazione. I morti non ci perdoneranno mai, ha scritto Marcello Fois. E dentro la voragine aperta nelle strade, negli squarci delle facciate con pochi decenni di vita alle spalle, nelle macerie ammassate lungo le strade, riemergono ferite stratificate con gli anni e coi condoni. Ora che si calcola che 500 milioni servirà per ricostruire, sembrano ancora di più quei 17 piani di risanamento che hanno fatto spuntare pilastri e balconi un po' ovunque e brucia sulla carne viva il ricordo di quei soldi stanziati per la difesa del suolo ma spesi in altro modo. La storia di Olbia e di quest'area che, ingannata dal luccichio della Costa Smeralda, aveva dimenticato le fragilità del suo territorio, racconta pure questo. È scritto nero su bianco nelle cifre analizzate dalla Corte dei Conti da Stefano De Liperi, che ne è un dirigente, oltre a far parte di un gruppo ecologista. Ci si ritrova quasi obbligati a dover provvedere come amministrazioni pubbliche, una volta che questi interventi abusivi vengono condonati, ci si ritrova costretti a provvedere alla realizzazione di tutte quelle opere di urbanizzazione primaria che sono necessarie, sono il minimo indispensabile proprio per consentire una decente vita quotidiana, e quindi la realizzazione di fognature, la realizzazione di impianti di depurazione, la realizzazione di strade, però di interventi che sono sorti appunto senza alcuna programmazione, senza alcuna pianificazione, abusivamente. Doppio danno per la collettività, perché da un lato si è costretti a fornire poi di opere di urbanizzazione primaria, quindi di servizi fondamentali, interventi che sono sorti abusivamente. Da un altro lato è un altro danno, perché è un danno di fatto sia per la corretta gestione del territorio e sia per l'incolumità pubblica. Lì vanno a vivere delle persone e non sanno che rischio vanno a correre. Quando ci sono state queste costruzioni abusive, sono state poi annesse, naturalizzate, servite, sì, non in sì, qualche modo sì. respinte dalla città, ma annesse alla sua rete di servizi. E sì, questa sì, è la responsabilità politica. Questa è una gravissima responsabilità politica. Quando oggi si dice ma abbiamo subito un danno derivante da una piena millenaria, ma in realtà si sta dicendo una cosa che è solo in minima parte vera. C'è stata una pioggia eccezionale, tutto quello che si vuole, però è anche vero che quei danni che si potevano subire sono stati moltiplicati per l'ennesima volta dal fatto che si tratta di danni subiti in quartieri sorti dove non dovevano sorgere, perché in zone a rischio idrogeologico, in zone dove si sa che l'acqua sarebbe passata nuovamente. E questo appunto è avvenuto in queste zone dove ci sono stati, sì, in questi 10 anni e più, questi famosi 17 piani di risanamento. Sì. Ecco, che cosa è successo in questi anni? È accaduto che quegli interventi abusivi venivano realizzati, non veniva effettuato alcun serio controllo del territorio, non venivano effettuati quei necessari provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, le case venivano completate, venivano abitate, dopodiché grazie ai vari provvedimenti di condono che si sono succeduti nel corso degli anni, queste case sono diventate legittime. Allora, una volta diventate legittime, devono essere dotate delle necessarie infrastrutture, e quindi lì già c'è un costo per la collettività. E vediamo appunto la realizzazione di strade, la realizzazione di fogne, la realizzazione di impianti di depurazione. Però queste case, questi quartieri sono sorti comunque in impluvi naturali, sono sorti praticamente a due passi dai torrenti, dai corsi d'acqua, e l'acqua quando torna a scorrere ricorda benissimo dove passava. È accaduto a Olbia come in quest'anno, come è accaduto nel 2008 a Capoterra, è la stessa identica situazione. Purtroppo queste situazioni non insegnano nulla. Prevale il richiamo della costruzione, il richiamo del cemento. Ecco, sì, dottor De Liperi, però negli anni, e lei anche dall'osservatorio della Corte dei Conti l'ha anche visto, erano stati anche stanziati dei fondi per degli interventi a difesa del suolo, dei fondi regionali. Sì, che fine hanno fatto? In buona sostanza non sono andati a compimento gli interventi, ancora in buona parte, e purtroppo i risultati si vedono. Di questi fondi, un 1,5 milioni che erano stati destinati proprio per il suolo, quindi contro il dissesto idrogeologico. Sono stati proprio distolti addirittura. Distolti e destinati ad altro? Distolti, sì, destinati ad altro, sì. Destinati a che cosa, lei lo sa? Sì. Destinati, secondo la dicitura del bilancio regionale, sono stati destinati a interventi contro le nuove povertà. Quindi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Sì, c'è anche da dire questo, che potevano essere destinati altri fondi e non questi invece che avevano la finalità della lotta al dissesto idrogeologico. In questo momento diventa una responsabilità non secondaria non aver utilizzato quei soldi che erano stati destinati proprio contro il dissesto idrogeologico, e non a caso, ma proprio perché quello è un territorio fortemente a rischio per altre sia pur lodevoli iniziative, però in questo momento, quando ci sono così tanti morti, diventa una responsabilità pesante. Sì, a mio parere sì. A mio parere sì. È un elemento che è mancato dalle voci di spesa, mi sembra di capire. Io credo che fondamentalmente manchi la volontà al di là dei fondi, perché se si interviene vuol dire stop all'abusivismo edilizio, vuol dire stop agli interventi di cementificazione del territorio che sono diventati una vera e propria follia, vuol dire stop a tanto consenso elettorale immediato e facile. sostanzialmente questo è il problema. Cioè, ecco, c'è stata proprio un'esplosione del fatto che diciamo, le costruzioni, anche considerando tutto il turismo della Sardegna e quanto si avvicina a Olbia, anche alla Costa Smeralda, sembravano diciamo la panacea, dovevano sembrare quello che portava la ricchezza alla regione. Beh, Olbia praticamente nel corso degli ultimi 20-30 anni, in pratica come popolazione, come struttura urbana, è praticamente triplicata, quindi c'è poco da dire. E consideri che Olbia non ha ancora un piano urbanistico, l'attuale strumento urbanistico è vecchio di oltre 40 anni praticamente. Storia di cemento prima e di lacrime poi, quella di Olbia. Storia di soldi non spesi per la difesa del suolo e ora drammaticamente stanziati per la ricostruzione. Storia di rincorse politiche e illusioni mondane sbalzate via dalla furia della natura che torna laddove era, prima dei palazzi, prima dei condoni, prima del cemento. Una storia drammaticamente italiana, quella di Olbia. La storia di un paese che 15 anni dopo i 160 morti di Sarno, sepolti dal fango, ancora discute di un piano serio contro il rischio idrogeologico. E intanto il fango lascia altri lutti e semina altro dolore in chi, come Roberto Robustelli, per ore ci è rimasto dentro, in lotta tra la vita e la morte, in quel lontano 1998, quando la montagna venne giù sui comuni campani. Io, come al solito, ogni volta che mi ritrovo davanti a questi fatti, passo dei giorni a pensare, ma non a quello che mi è successo, a quello che in questi anni si sarebbe potuto fare per evitare quello che deve ancora accadere. Sarno è successa l'alluvione, ma mica stiamo bene. Se dopo tanti anni mi costruiscono dei canaloni e questi canaloni sono intasati di tutto e di più, è normale che se un domani arriva giù una pioggia imprevedibile e ti butta giù tutto, allora se c'è qualcosa di imprevedibile e di eccezionale, io nel contempo devo cercare di capire come marginare e come eliminare queste probabilità che potrebbero esserci un domani. Invece noi stiamo qua, no? L'ordinario non lo facciamo mai. Poi piangiamo i morti e poi buttiamo soldi nello straordinario. Guardando però le immagini di quel fango in Sardegna, inevitabilmente ha dovuto ripensare alle ore che lei ha passato dentro al fango 15 anni fa a Sarno, veramente. Ma per forza, Raffaele, ma pure quello che succede nelle Filippine. Stai là a rimuginare, stai là a rimproverarti, perché rimproveri pure te stesso per quello che non hai fatto. Le storie personali di queste persone, cioè è morta di infarto dalla paura. La bambina che muore abbracciata col paciente. Sono cose allucinanti, che ne parlo, mi si raccappona la pelle. Perché ma sono le stesse storie che avete vissuto voi a Sarno, sì, che lei direttamente ha vissuto. Mi sono ritrovato che nel fango uscivano le mani dei bambini, no? E io non ci potevo fare niente, non potevo arrivare, non li potevo prendere. E poi ti sento a quello che è stato intervistato a Olbia e dice: io l'ho visto, stavano là, io non ho potuto fare niente, sono andato a prendere una corda come quello che era andato a prendere la corda per me, poi non l'ho visti più. Allora la storia si ripete, è sempre la stessa. Ma che dobbiamo fare? E anche voi pensate che ci sia la mano dell'uomo dietro queste alluvioni? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.